buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Una nuova puntata di Entropia Massima questa sera, Libera Scienza e Libero Stato. Parleremo di fabbisogno energetico mondiale, quindi aspetti geopolitici legati al consumo energetico. Lascio subito la parola a Lorenzo. Ancora da remoto, dalle nostre case di isolamento, care compagne e cari compagni all'ascolto, sorelle e fratelli di Radio Onda Rossa, a casa o al lavoro nonostante tutto, e tutti voi, attivi e attive nei mille gruppi della città solidale, quella città fatta da persone che cercano ad ogni costo e con molta fatica a volte di non smettere di stare vicino a chi è in maggiore difficoltà in questa crisi e che magari si trova o rischia di trovarsi addirittura in emergenza alimentare, grazie a chi ci si sta mettendo con tanta forza. Cominciamo da questo grazie. E in questa crisi, dal nostro parziale punto di vista, stiamo assistendo ad un sacco di cose: nuovi esperti e divulgatori scientifici più o meno capaci, più o meno rigorosi con i loro grafici astrusi e le loro previsioni di tutti i tipi, esperti di modelli statistici più o meno evoluti, e soprattutto assistiamo a dibattiti tra scienza e cosiddetta pseudoscienza, dibattiti che a volte in alcuni casi hanno raggiunto livelli altissimi, arrivando a coinvolgere anche premi Nobel in decadenza o plurilaureati al MIT, e sempre esperti di fama internazionale, chiamando in causa alternativamente deep state, poteri occulti, case farmaceutiche e, cosa più interessante, rapporti più o meno reali o più o meno presunti tra scienza e potere o poteri. Rapporti che comunque, quando sarà passato un po' di tempo, dovremo provare ad affrontare in questa sede, ma lo faremo più in là, passata la fase emergenziale, sfrondate un po' di robe da Facebook, diciamo. Tra questi dibattiti, molti, anche particolarmente accesi, hanno riguardato l'origine del virus, la sua provenienza. Tra le tante ipotesi lanciate sulla rete, vale la pena di nominare la fuga più o meno casuale, più o meno voluta, del virus, del patogeno, da un laboratorio di ricerca che assumeva i tratti militari, se di origine americana, oppure un laboratorio dove si faceva sperimentazione sui vaccini, sarebbe stato cinese. Anche è stata chiamata in causa anche l'influenza delle onde elettromagnetiche, in particolare della tecnologia 5D sulla diffusione e virulenza del patogeno. Questo è accaduto anche quando studi molto approfonditi e ampiamente condivisi dalla comunità scientifica mondiale hanno escluso del tutto praticamente questa possibilità di origine artificiale. Tuttavia, nelle maglie della rete, nelle maglie del dibattito, sono continuate a girare le teorie più assurde e fantascientifiche, alcune molto elaborate. Come se la spiegazione scientifica, che in qualche modo è della scienza ufficiale, il cosiddetto spillover, ovvero il salto di un patogeno da una specie animale all'altra e poi all'uomo, non fosse una spiegazione già di per sé abbastanza complessa e inquietante, proprio per le conseguenze gravi cui può portare e che stiamo in parte vivendo, o che abbiamo già avuto modo di vedere nel caso delle terribili epidemie di Ebola, un altro virus ospitato dai pipistrelli che periodicamente torna a falcidiare le popolazioni africane. Inoltre, in questo contesto, sembra che sia opinione abbastanza diffusa nella comunità scientifica che l'insorgenza e la moltiplicazione di fenomeni di questo tipo, cioè il salto di un patogeno dalle specie animali fino ad arrivare all'uomo, fenomeni già abbastanza frequenti per la verità, potrebbe essere amplificata, se non addirittura innescata, dall'effetto prodotto sull'ambiente dalle attività umane, dal riscaldamento globale e dalla perturbazione degli equilibri naturali dei diversi ecosistemi. È stata addirittura proposta, sulla base in verità di dati esigui e non ancora verificati, una correlazione diretta tra la diffusione del virus e le polveri sottili che avrebbero agito come vettore, soprattutto in alcune zone particolarmente inquinate. Al di là di questa ipotesi, più o meno realistica, è certo che nelle popolazioni umane che vivono in contesti più compromessi dal punto di vista ambientale, queste popolazioni sono più vulnerabili a malattie che coinvolgono l'apparato respiratorio, come prevedibile. Insomma, in questa epoca di crisi epidemica si è tornati quindi a parlare tanto di riscaldamento globale di origine antropica e sono tornati a diffondersi articoli e fortunatamente riflessioni volte a mettere in evidenza all'opinione pubblica i rischi legati all'innalzamento della temperatura globale. In assenza di contromisure quanto mai urgenti, infatti, negli scenari peggiori, la temperatura globale della Terra potrebbe salire fino a raggiungere un livello addirittura pari a quello che c'era nelle Eocene o nel Miocene oltre 23 milioni di anni fa, livello mai più raggiunto. Allora il livello del mare era probabilmente di circa 70 metri più alto di quello attuale. O magari semplicemente 2 milioni e mezzo, 3 milioni di anni fa, nel cosiddetto Pliocene, quando il livello era comunque tra 20 e 30 metri maggiore dell'attuale, e in questo periodo si sono formate tutte le piane costiere dei nostri continenti, quindi un rinnalzamento porterebbe a ricoprirle. Quindi, anche per ridurre a questo punto i rischi di pandemie future, secondo molti articoli e commentatori e riflessioni pubbliche, è quantomai urgente accelerare il passaggio, la transizione energetica e l'abbandono definitivo dei combustibili fossili. Diverse volte in passato abbiamo parlato del grande accordo che c'è in seno alla comunità scientifica mondiale, a parte un piccolo gruppo di pittoreschi scienziati negazionisti, sul fatto che l'origine del riscaldamento globale, che abbiamo anche definito come un iperoggetto, cioè non del tutto percepibile dall'uomo, ma che riusciamo a cogliere da misure relative ad alcune grandezze che lo caratterizzano, ad esempio l'incremento dei periodi secchi, l'incremento della temperatura. Insomma, nella comunità scientifica mondiale l'origine del riscaldamento globale contemporaneo è da ricercarsi nelle emissioni di gas serra di origine antropica, la cui concentrazione all'interno dell'atmosfera è aumentata in modo sensibile negli ultimi 150 anni e in modo decisamente vertiginoso a partire dal secondo dopoguerra. Insieme all'incremento della concentrazione dei gas serra, e parallelamente ad esso è seguito un incremento costante della cosiddetta temperatura media globale superficiale. Abbiamo visto anche molte volte come, secondo l'IPCC, ovvero il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite, per contenere l'inevitabile, ormai inevitabile, incremento della temperatura media globale superficiale entro 1,5 gradi, sarebbe necessario ridurre le emissioni nette di anidride carbonica di origine antropogenica a circa il 45% rispetto ai livelli di 10 anni fa, entro 10 anni, entro il 2030, e raggiungere poi lo zero netto di emissioni intorno al 2050. Per stare invece entro i 2 gradi centigradi dovremmo azzerarle al 2075. Un attimo se ci pensate, visto che siamo al 2020. Ci siamo concentrati tante volte su questi dati e abbiamo cercato di capire se le misure proposte da questo gruppo, dall'IPCC, per fare fronte al riscaldamento globale e ridurre le emissioni di gas serra in un contesto che però viene mantenuto, in un contesto economico globale che viene mantenuto in tutti gli scenari in crescita continua, fosse uno scenario poi a sua volta plausibile. Altre volte, sempre in questo ragionamento che portiamo avanti da diverse puntate, da un paio d'anni, altre volte ci siamo interrogati sull'efficienza reale delle fonti energetiche cosiddette rinnovabili, da più parti indicate come sostituti necessari dei combustibili fossili. Di queste fonti energetiche, della comunicazione rispetto alle fonti energetiche rinnovabili, si è nel frattempo impadronito qualcuno, come dimostrano le molte pubblicità green, dei grandi gruppi petroliferi, tra le quali spiccano decisamente quelle in cui sono presenti ragazzi e ragazze con i capelli rasta o con cespi di verdura, di foglie in testa, a rappresentare evidentemente la gioventù e la freschezza dei movimenti ambientalisti. E negli Stati Uniti c'è già chi dice che ormai questi movimenti ambientalisti sarebbero stati acquisiti, di fatto comprati dal capitalismo produttivo che si è impadronito anche della produzione dei combustibili cosiddetti da fonti rinnovabili. E tali movimenti non sarebbero più in grado, negli Stati Uniti, di opporsi alla voracità del capitale, e la loro attività si sarebbe ormai relegata alla difesa del loro logo e del loro marchio green. Uno scenario triste proposto da un documentario, Planet of the Humans, che in questi giorni è a disposizione gratuitamente su internet. E oggi, ancora una volta, torniamo a parlare di fonti energetiche, care compagne e cari compagni. Lo facciamo nell'ambito di questo discorso sul cambiamento climatico globale, sul riscaldamento climatico globale e la diffusione possibile di pandemie. Ad aiutarci ci sarà un gradito ospite che verrà introdotto dal nostro caro, la nostra guida in tutte queste nostre esplorazioni scientifiche, che è il comandante Jacopo, cui lascio immediatamente la parola. A te, comandante Jacopo. Sì, grazie, grazie Lorenzo per le tue bellissime sempre e utilissime introduzioni alle nostre meravigliose puntate. Buonasera a tutte e a tutti. E Sì, come hai detto tu, oggi riprendiamo il discorso sui cambiamenti climatici, soprattutto in relazione a questa pandemia, no? Che, come detto, come ricordato, è assolutamente correlata proprio al riscaldamento globale e a tutti i problemi che questo causa e causerà nel futuro, se non anche peggiori, ecco, da un punto di vista di tragedie di morti. Come detto, noi abbiamo fatto già diverse puntate, lei ha già ricordato, su queste tematiche, l'abbiamo trattato in maniera scientifica, abbiamo cercato di affrontare gli aspetti più rigorosamente scientifici rispetto a queste problematiche, soprattutto intorno parlando dei piani, degli obiettivi dell'IPCC, che, come ricordato, appunto è un'organizzazione intergovernativa sui cambiamenti climatici dell'ONU, cioè quella che in buona sostanza detta gli obiettivi per contrastare il riscaldamento globale. Un'impresa ardua perché dà degli obiettivi molto ambiziosi, come detto, eliminare le emissioni di CO2 antropiche entro il 2050, ridurle a zero, insomma, francamente sembra, detta così, sembra impossibile. E soprattutto in che modo si può fare questo? L'IPCC dà dei suggerimenti, fa delle analisi rispetto a questo, cioè quindi soprattutto concentrandosi su quello che sarà la transizione, che dovrebbe essere la transizione energetica, quella che servirà appunto ad arrivare a zero emissioni nel 2050. A noi ci sembra, l'abbiamo già detto, un po' quello che dice l'IPCC, un po' troppo politicamente corretto, un qualcosa che non va troppo a fondo, è una cosa che rimane sempre anche abbastanza superficiale, perché ti dice, ti dà delle possibilità, ti dice di utilizzare determinate fonti di energia, ma non entra mai, o comunque se non in minima parte, nel merito di questo. Se queste energie sono effettivamente valide, se comunque possano riuscire a soddisfare il fabbisogno mondiale, ecco, di energia che c'è. Ora, però, adesso, come detto, abbiamo un ospite, questa volta abbiamo deciso di affrontare anche il problema da un punto di vista non solo prettamente scientifico, ma correlare la scienza, appunto perché questa è una trasmissione che si chiama Scienza e Potere, si occupa di scienza e potere, appunto degli aspetti anche politici ed economici soprattutto, quindi gli aspetti geopolitici. Lo facciamo con un gradito ospite, nonché un mio carissimo amico da tantissimo, è il dottor Demosthenes Floros. Lui è un analista geopolitico ed economico e lavora al CER, che è il Centro Europeo di Ricerca, e collabora con diverse riviste nazionali, tra cui per esempio l'IMES. Prima di dargli la parola, volevo dire che ha scritto anche un libro interessantissimo, il suo ultimo libro, che si chiama Guerra e Pace dell'Energia, la strategia per il gas naturale dell'Italia tra Federazione Russa e NATO, ed edizione di Arcos. Ora, questo libro, come con prefazione di Lucio Carracciolo, io l'ho letto, è un libro interessantissimo, soprattutto, ma come già hanno detto tutti, la prima cosa che è stata in mente, ma la voglio dire anch'io, è un libro, essendo un uomo di scienza, ha un rigore scientifico che non ha nulla da invidiare ai trattati scientifici come la fisica e le scienze naturali. Perché? Perché soprattutto è un libro pieno di ogni cosa che dice Demostene, è corredata da referenze. È un libro pieno di referenze su cui uno può trovare tutte le informazioni che desidera. Quindi diciamo che questo libro può avere due livelli di interpretazione. Uno, diciamo, che si può fermare a una divulgazione, diciamo, più semplice, e volendo si potrebbe invece avere proprio, fare su questo, sulla base di questo libro, un approfondimento scientifico sia a livello economico che geopolitico. Ti presento, buonasera Demosthenes, ci sei, ci senti, sei in ascolto? Buonasera Jacopo, buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito e grazie per la splendida presentazione in merito al mio libro. Va bene, allora adesso mi dicono che bisogna fare uno stacco musicale perché il tempo è tiranno, e riprendiamo subito con Demostene appena dopo lo stacco musicale. a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water. Once in a Lifetime, ritorniamo in voce, libera scienza in libero stato, entropia massima. Torniamo a parlare di transizioni energetiche, rilascio subito la parola al comandante Jacopo. Grazie Chiara, eccoci qui di nuovo per affrontare il problema dell'energia, il fabbisogno energetico mondiale con il nostro amico Demosthenes. Prima di dargli subito di dargli la parola, volevo semplicemente fare un cappello introduttivo a livello, diciamo, più scientifico rispetto al problema dell'energia. Perché? Perché comunque tutto ciò che noi diciamo, che stiamo dicendo, che diremo, il problema consiste, deve avere una certa organicità con i principi della fisica, perché poi alla fine si parla di energia e quindi quando si parla di energia bisogna parlare di fisica e quindi capire quali sono i limiti della produzione dell'energia, che non esiste un'energia alternativa panacea di tutti i mali, su cui non ci sarà mai inquinamento che produrrà all'infinito una macchina termica eterna. Perché questo? Questo deriva semplicemente dalla termodinamica, dagli studi che sono stati fatti a partire dal 1800, con i primi fisici che studiavano, che approcciarono al mondo delle macchine termiche e del lavoro, come Carnot, come Kelvin, come Joule, questi sono i nomi Clausius, questi sono i più grandi scienziati che hanno gettato le basi della termodinamica, su cui poi si fonda appunto tutto ciò che è l'approvvigionamento energetico. Lo voglio dire questo, non perché per farvi una lezione pedante di fisica, che adesso non è ovviamente la sede questa e neanche il momento, però volevo solo ricordarvi quello che poi avevamo già detto rispetto a questo, che se noi andiamo e studiamo, prendiamo il secondo principio della termodinamica, dico solo questo, il secondo principio della termodinamica afferma che è impossibile realizzare una macchina termica il cui rendimento sia pari al 100%. Quindi questo vuol dire che non ci sarà mai nessun tipo di macchina termica che avrà un rendimento su cui tutto il calore che noi generiamo vada a finire il lavoro, cioè quindi poi per esempio per generare corrente elettrica, ma ci sarà sempre un grande dispendio di questa energia che verrà in un certo senso, lasciatemi dire, passatemi il termine, buttata in senso proprio di caos, di entropia, non più utilizzabile. Questo, facciamo degli esempi, per esempio il grande motore a scoppio, no? Di automobili e tutto ciò che va con benzina e diesel. I motori a scoppio hanno un rendimento pari al 28%, variano dal 28 al 36%, quelli diesel un po' di più, dal 36 al 44%. Ciò vuol dire che più della metà, per esempio, della benzina, del diesel che noi utilizziamo vanno a finire, si disperdono nell'ambiente, quindi energia non utilizzabile, che non verrà più utilizzata. Così come per le centrali termoelettriche, le grandi centrali, per esempio, che poi ci danno l'energia elettrica, quindi quelle che vanno a carbone, petrolio, gas naturale, questi hanno anche questi rendimenti bassi, un rendimento anzi è migliore di adesso a ciclo combinato, non entro in dettagli, ma sono migliorie che vengono fatte nelle centrali per arrivare a aumentare sempre di più, lo scopo è aumentare di più il rendimento, ma sempre un rendimento basso, 50 al 60% per quelle migliori. E poi abbiamo addirittura quelle che rientrano dentro poi nelle fonti di energia verdi, no? Ecologiche, come l'idroelettrico. L'idroelettrico, per esempio, pensate, e questo non si sa in maniera, diciamo, pubblica, ma solo per gli addetti ai lavori o chi cerca di addentrarsi un po' più in queste problematiche, per esempio, il bilancio dell'idroelettrico non conviene, cioè non conviene nel senso che il bilancio è di circa il 75% di quello che restituisce la rete. Cioè cosa vuol dire? Che l'idroelettrico, come l'acqua, l'idroelettrico ci serve un invaso, una diga, e poi l'acqua viene fatta scorrere, viene utilizzato lo sbalzo proprio di altitudine. In questo sbalzo di altitudine l'acqua mette in moto una turbina, questa turbina genera corrente elettrica, ma poi quest'acqua bisogna riportarla in su, ripomparla nei bacini a monte, per poi ricostituire il processo. Ora, questa cosa qui non è conveniente. È conveniente solo in termini economici. Perché? Perché viene utilizzata? Perché ripompare l'acqua su costa di meno, viene fatto di notte, e quindi l'energia elettrica che io spendo per ripompare l'acqua a monte costa meno, e quindi la compagnia elettrica ha un guadagno. E quindi ecco perché utilizza l'idroelettrico, ma da un punto di vista fisico, proprio di bilancio energetico, invece spendo molto di più a ripomparla che a generare la corrente elettrica attraverso lo sbalzo. Quindi non è proprio, diciamo, conveniente, ecco, se uno volesse utilizzare l'idroelettrico senza considerare tutto un mix energetico diverso. Il fotovoltaico passa per green, ma tanto green sì, non produce CO2, ma per uno non ha mai pensato, ma per produrre il fotovoltaico bisogna produrlo in una filiera industriale, che questo comporta il dispendio comunque sempre anche di combustibili fossili, di calore, di estrazione di materie rare, che sono estrazioni che inquinano moltissimo, le estrazioni di materie, il litio, il quarzo e il silicio soprattutto, con cui vengono fatti i fotovoltaici, ma soprattutto poi il rendimento di questo fotovoltaico, no? Noi pensiamo, riprendiamo la Tirreno Power, una centrale dell'Enel che genera, questa è una centrale che va a gas naturale, petrolio mi pare, che genera questa qua circa 1520 megawatt termoelettrici. Ora, un pannello fotovoltaico 3 kilowatt, seguitemi, per generare 3 kilowatt di energia elettrica con un pannello fotovoltaico ho bisogno di una superficie di circa 20-25 metri quadrati di pannelli fotovoltaici. Allora cosa vuol dire? Se io volessi generare la stessa energia prodotta da questa centrale Tirreno Power di 1520 megawatt, io divido 1520 megawatt di potenza termoelettrica, diviso 3 kilowatt e faccio il conto di quanti pannelli fotovoltaici mi servono. E quindi arrivo, faccio questo conto, a 11.200.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici. Ora, va bene per riscaldare il fotovoltaico per generare corrente elettrica dentro una casa, ma capite bene che ordine di grandezza stiamo parlando. Anche le centrali termonucleari, quelle famose che si parla tanto di nucleare, anche quelle hanno un rendimento bassissimo, hanno il 32%, tutta l'energia che viene prodotta dalla fissione dei nuclei atomici, circa il 70% si disperde in calore, in energia non più riutilizzabile. Ora, questo è l'eolico, anche l'eolico, ecco, per arrivare infine all'eolico io riesco ad avere l'energia che attraversa le pale eoliche. Ora, di questa energia che il vento mi fornisce, io ne posso utilizzare al massimo, in un caso reale una tecnologia molto avanzata di calore, circa il 50% di questa energia. Quindi vedete che il problema dell'energia è un problema enorme per soddisfare il fabbisogno mondiale, di cui 7 miliardi di persone e i paesi in via di sviluppo si accingono sempre di più a essere energivori. Ora, questo si innesta appunto con i discorsi di PCC. Adesso ne parliamo appunto con Demostene e ci dirà a livello mondiale come siamo messi, perché noi parliamo di questo, ma poi la realtà dei fatti è un'altra. La prima domanda che ti faccio, Demostene, su cui tu sei molto competente, l'hai studiato moltissimo, il mondo, che mix energetico ha? Cioè, noi per creare energia elettrica il mondo utilizza petrolio, shale oil, gas naturale, eccetera. Ora, ci puoi parlare di questa miscela, no? Perché che ci fa andare avanti, insomma, a livello mondiale, di energia. Sì, direi di partire quindi da quella che è l'analisi del paniere energetico del mondo, sostanzialmente chi siamo, ecco, o per meglio dire quali energie utilizziamo per fare in modo che le nostre economie producano i beni e i servizi di cui abbiamo bisogno. Allora, secondo quelli che sono i dati forniti dal BP Statistical Review del 2019, cioè i dati più aggiornati in attesa verso metà del 2020, del numero appunto del 2020, il mondo nel 2018 ha consumato 13.865 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. E il nostro pianeta, il nostro mix energetico è così costituito. Per il 34% noi utilizziamo petrolio, che è quindi la fonte più utilizzata in assoluto. Segue il carbone con il 27%, il gas naturale con il 24%, l'idroelettrico di cui parlavi in precedenza, il 7%, e chiudono il nucleare e le rinnovabili con un 4% a testa. Quindi la prima considerazione che noi possiamo fare in merito a quello che è il mix energetico del mondo nel 2018 è che quasi l'85% del nostro paniere energetico è coperto dalle cosiddette fonti fossili. Potremmo nel contempo fare qualche parallelo, entrare un pochino più nello specifico e ad esempio vedere quello che è il mix energetico dell'Unione Europea e poi casomai anche quello del nostro paese, l'Italia. Ora, l'Unione Europea consuma in termini relativi ovviamente più petrolio rispetto al mondo, qui siamo al 38%, una percentuale di gas naturale analoga, al 23%, utilizziamo meno carbone, siamo al 13%, abbiamo invece un maggior utilizzo di nucleare, che però, come tutti quanti i nostri ascoltatori sanno, non riguarda il nostro paese, dopo lo vedremo meglio, mentre le rinnovabili insieme all'idroelettrico, anche se questa somma non è propriamente corretta, coprono il 15%, 10% le rinnovabili e 5% l'idroelettrico. Quindi sostanzialmente un maggiore utilizzo in termini relativi di petrolio e un minore utilizzo di carbone da parte dell'Unione Europea rispetto al paniere energetico del mondo e una percentuale superiore anche per quanto attiene le rinnovabili. Venendo invece a quello che è il nostro paese, l'Italia, il paniere energetico dell'Italia è contraddistinto per quasi l'80% dall'utilizzo di petrolio e gas naturale, che coprono il 39% ciascuno della nostra torta energetica. Quindi possiamo dire che noi funzioniamo sostanzialmente a petrolio e gas naturale. L'utilizzo che noi facciamo di gas naturali in particolar modo è in termini relativi molto superiore rispetto a quello dell'Unione Europea e a livello mondiale, ed è secondo soltanto alla Federazione Russa, che utilizza nel suo paniere energetico il gas naturale per il 55% dei propri consumi di energia primaria. C'è però una grandissima differenza tra noi e la Federazione Russa, cioè la Federazione Russa è ricca, ricchissima di gas naturale, noi invece non siamo un paese ricco di gas naturale, o per meglio dire la nostra produzione negli ultimi anni, negli ultimi decenni è diminuita, ma qui la spiegazione dell'utilizzo del gas naturale in tale percentuale è dovuto a quel genio che rispondeva al nome di Enrico Mattei e al ruolo che ha svolto non solo nel nostro paese con l'ENI, ma anche insomma a livello internazionale. Utilizziamo poco carbone perché siamo al 6%, quindi il nostro paese utilizza pochissimo carbone, non abbiamo il nucleare, come sappiamo dagli anni 80, dal referendum degli anni 80, subito dopo il Chernobyl, mentre il nostro utilizzo di rinnovabili e di idroelettrico è superiore sia al mix energetico dell'Unione Europea sia a quello globale, perché è all'incirca del 17-18%. Quindi il nostro paese, 10% rinnovabili e 7% idroelettrico, ha un utilizzo significativo da parte delle rinnovabili. Aggiungerei, perché è molto interessante ed entra subito nell'attualità politica ed economica, anche il paniere energetico di quella che è la potenza, forse non più emergente, ma perlomeno in termini di parità di potere d'acquisto, è già la prima economia del pianeta dalla fine del 2014, come scriveva il Financial Times, cioè la Cina, il cui paniere energetico è molto interessante e nel contempo contraddittorio, se mi permettete l'espressione, perché è coperto per il 58% da carbone. Ovviamente questo ha delle implicazioni dal punto di vista ambientale molto significative, perché ovviamente il carbone è tra le fonti fossili quella che costa di meno ma che emette più CO2. I cinesi utilizzano petrolio per il 20% e il gas naturale per l'8%, così come l'idroelettrico. Il nucleare è al 2%. Le rinnovabili sono al 4%. Attenzione però, perché se noi vedessimo l'evoluzione del paniere energetico della Cina nel corso degli ultimi 6-8 anni, che cosa possiamo osservare? Possiamo osservare una diminuzione in termini relativi dal 66 al 58% di carbone, che a dire il vero è stazionario anche da un punto di vista, si è calcolato in termini assoluti, mentre comincia poco alla volta ad aumentare il gas naturale, che prima sostanzialmente non veniva utilizzato o veniva utilizzato pochissimo, mentre adesso la sua percentuale cresce e i cinesi stanno investendo tantissimo sul gas naturale e vorrebbero aumentare questa quota dell'8% almeno all'11-12% nel corso dei prossimi anni, e ciò ha delle ripercussioni geopolitiche immense, così come sottolineare il ruolo delle rinnovabili, che non esistevano fino a pochissimi anni fa in Cina, e invece oggi la Cina è il paese che più investe al mondo nelle rinnovabili. Va bene, Demos, ti interrompo un attimo perché dobbiamo mandare uno stacco musicale. E quindi poi riprendiamo il discorso subito dopo. Quindi da quello che dici, vi faccio subito questa considerazione, mi sembra che tutto sta andando verso comunque un aumento della produzione dell'energia elettrica. Ora si differenziano i panieri, ma comunque è assolutamente lontano da quello che l'IPCC sta prospettando in questo, entro il 2050. Insomma, una transizione energetica ben diversa, insomma, ecco, diciamo questo. E allora un altro breve intervallo musicale, Weapon of Choice, Fatboy Slim. Allora, bentornati dopo lo stacco musicale, bentornati, questa è Radio Onda Rossa, Libera Scienza in Libero Stato, e siamo dalle nostre case di isolamento e stiamo ascoltando e ospitando un gradito ospite che ci sta, fino adesso ci ha spiegato finalmente meglio di come avevamo potuto fare noi in passato la ricetta del mix energetico mondiale con degli esempi. A partire da queste percentuali complesse e dalla... e anche dalle informazioni che avevamo in passato, ci eravamo trovati a ragionare sui tempi delle transizioni energetiche. Qualche puntata fa avevamo analizzato quanto tempo c'era voluto per passare dall'economia del legno, diciamo, a quella del carbone, poi quanto tempo il passaggio dal carbone c'era voluto per passare dal carbone al petrolio, e adesso era in atto la transizione appunto al gas naturale. E ovviamente, a parte gli aspetti, diciamo, tecnologici, c'è tutti gli aspetti anche di gestione politica, cosiddetta geopolitica, e gli equilibri anche legati ai meccanismi di trasporto del gas, come quelli delle altre fonti energetiche. E quindi pregherei il nostro capitano secondo Demostenes, il nostro ospite, di aiutarci a orientarci anche in questo mare di complessità legato alle transizioni energetiche e poi a tutti i problemi geopolitici. Questo qua sempre nel colloquio a quello che abbiamo detto all'inizio, insomma, alla possibilità di analizzare pure gli effetti sul riscaldamento globale, sulle emissioni di gas serra. A te la parola. Allora, partiamo sempre da quella che è la realtà e quindi i dati così come li abbiamo oggi. Prima dicevamo, analizzando il paniere energetico mondiale, che le fonti fossili contribuiscono per quasi l'85% nel determinare appunto il mix energetico del mondo. Ma cerchiamo di entrare un pochino più nello specifico e passiamo da un'analisi quantitativa ad un'analisi più qualitativa, cercando di capire quelli che sono i pregi e i limiti delle fonti fossili. Possiamo avanzare le seguenti considerazioni, e cioè la prima, proprio in merito al tema delle emissioni di CO2 di cui parlavate in precedenza. Il gas naturale, sia rispetto al carbone, soprattutto rispetto al carbone, ma anche rispetto al petrolio, emette meno CO2. Quindi questo è il primo, diciamo così, vantaggio che ha il gas naturale rispetto agli altri due combustibili fossili. Il gas naturale costa di più del carbone, che però è quello che emette più CO2, ma costa meno del petrolio a parità di potere calorifico. Quindi questi sono i primi due grandi vantaggi che ha l'utilizzo del gas naturale rispetto alle altre fonti fossili. In terzo luogo, il nostro pianeta è ricco di gas naturale e, ricollegandomi a quanto affermavi prima rispetto al suo trasporto, è relativamente facile da trasportare. Sappiamo che il gas naturale viene trasportato soprattutto via tubo e nel corso degli ultimi anni si è sviluppato anche il cosiddetto LNG, Liquefied Natural Gas, il gas naturale liquefatto, trasportato quindi attraverso delle grandissime navi metaniere, dopo averlo appunto trasformato dal suo stato gassoso a quello liquido e per poi riportarlo allo stato gassoso. Il tubo che copre la maggior parte del trasporto di gas naturale conviene entro i 6-7 mila chilometri. Oltre i 7 mila chilometri invece conviene l'LNG. È interessante osservare come nel corso dell'ultimo decennio le principali major mondiali, operanti ovviamente nell'oil and gas, hanno fatto molte più scoperte di nuovi giacimenti di gas naturale rispetto invece a nuovi giacimenti petroliferi, i quali, a dire il vero, nel corso degli ultimissimi 2-3 anni le nuove scoperte sono letteralmente crollate. Poi certamente ci sono situazioni nelle quali un giacimento può produrre sia petrolio sia gas naturale, ma il fatto che le scoperte di gas naturale siano state superiori rispetto a quelle del petrolio ha fatto sì che gli investimenti delle stesse major petrolifere gassiere siano stati orientati molto più sul gas naturale rispetto al petrolio. Però attenzione, questo non vuol dire che il gas naturale non inquina. Anche il gas naturale inquina e emette CO2, anzi è esso stesso un gas serra che in termini di riscaldamento è 75 volte più potente dell'anidride carbonica, ci insegnano gli scienziati. Con una differenza però che non spesso viene ricordata, ma che ha indirettamente delle implicazioni geopolitiche, e cioè che rimane in atmosfera, prima di risolversi in atmosfera, impiega 10-20 anni rispetto invece all'anidride carbonica che impiega diversi secoli, se non millenni. Quindi sostanzialmente da gli elementi che ho suggerito, che cosa emerge? emerge, e questo oramai è chiaro, è sempre più chiaro perlomeno a chi fa il mio lavoro, agli analisti geopolitici, emerge chiaramente come questa transizione dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili, che noi ovviamente auspichiamo sia il più veloce possibile, ma non sarà così veloce come qualcuno crede, vedrà sostanzialmente l'emergere del gas naturale come fonte fossile principale, che farà da ponte tra il paniere energetico di cui parliamo oggi e un futuro paniere energetico. Ecco quindi che da un punto di vista geopolitico questo vuol dire che i paesi che sono ricchi di gas naturale assumono ed assumeranno sempre più un peso geopolitico maggiore. Il paese al mondo che detiene le maggiori riserve di gas naturale è la Federazione Russa. Altri paesi che detengono significative risorse sono l'Iran e il Qatar. E quindi è evidente che il peso geopolitico di questi paesi aumenta di conseguenza. È bene precisare che io fino a questo momento ho parlato di produzione cosiddetta convenzionale, perché se invece ci spostassimo negli Stati Uniti d'America, osserveremo anzitutto che nel corso degli ultimi 10 anni gli Stati Uniti sono diventati il principale produttore al mondo di petrolio e di gas naturale, ma lo sono diventati grazie al cosiddetto fenomeno del fracking o della fratturazione idraulica, che ha permesso appunto agli Stati Uniti di diventare leader nella produzione di petrolio e gas, ma non di diventare indipendenti da un punto di vista energetico, come erroneamente si legge da più parti. Il problema è che il fracking ha un impatto devastante da un punto di vista ambientale, quindi la produzione non convenzionale è devastante da un punto di vista ambientale, ma è insostenibile da un punto di vista produttivo. E la crisi da Covid-19, con il crollo del prezzo del petrolio, che avrà ripercussioni anche sul gas naturale, lo evidenzia in tutta la sua forza, tant'è che gli Stati Uniti d'America si stima che già alla fine del 2020 perderanno la leadership come principali produttori di petrolio e gas. E allora facciamo un'ultima brevissima pausa musicale. Neil Young, Rocking in the Free World. Shoes. There's a E allora di nuovo in voce, anche se ancora registrata, 87.9 modulazione di frequenza, ondarossa.info per chi ci ascolta in streaming. Torniamo con Libera Scienza in Libero Stato a parlare di energia, di fabbisogno energetico mondiale e di scenari attuali e futuri. Passo di nuovo la parola al comandante Jacopo. Grazie Chiara, eccoci qui di nuovo. Allora, Demostene, ti volevo chiedere, mi è venuta in mente questa domanda rispetto alla luce di quello che ci hai raccontato, ricollegandoci anche all'IPCC, ai dettami dell'IPCC. Allora, quanto tu ritieni realistica l'ipotesi di questa transizione a zero emissioni entro il 2050 che tanto l'IPCC promulga? Quanto tu per te realistica, ecco, alla luce di quello che ci hai detto? E purtroppo a mio avviso non è particolarmente realistica e ancora una volta partiamo dai dati e facciamo riferimento alla US Energy Information Administration, la quale appunto ci suggerisce quello che secondo i suoi modelli sarà il mix energetico del pianeta al 2050 e confronta il mix energetico del 2018, quello dal quale siamo partiti, l'ultimo a nostra disposizione, con quello del 2050. Anzitutto, in termini assoluti, i nostri consumi aumenteranno da oltre 600 quadrillion British Thermal Unit a oltre 900. Quindi un aumento che ovviamente sarà figlio anche dell'incremento della popolazione. All'inizio della trasmissione facevo riferimento agli oltre 7 miliardi di abitanti, nel 2050 si stima che saremo oltre i 10 miliardi. Se noi però analizzassimo il mix energetico al 2050, che cosa osserveremmo? Osserveremmo un incremento significativo delle rinnovabili che passerebbero da un 15% in termini relativi di oggi al 28%. Quindi un incremento significativo sia in termini relativi sia assoluti. Bisogna però precisare che all'interno di questa percentuale abbiamo sempre l'idroelettrico. Il nucleare passerà dal 5 al 4%, anche se ci sarà un incremento in termini assoluti, ma non particolarmente significativo. Interessante invece è vedere l'evoluzione del paniere energetico per quanto attiene le fonti fossili. E proprio sulla scia di quello che dicevamo in precedenza, la percentuale del gas naturale in termini relativi rimarrà bene o male invariata, attorno al 22-23%, ma in termini assoluti l'incremento sarà significativo perché passeremo dai circa 135 quadrillion BTU a oltre 100. Quasi 200, quindi un incremento in termini assoluti di oltre il 30%. Quindi gas naturale, come appunto individuavamo prima, avrà un incremento notevole in termini assoluti. Il peso sia del petrolio sia del carbone invece diminuirà in termini relativi. Quello del petrolio passerà dal 32 al 27%, il carbone dal 26 al 20%. Ma attenzione, perché anche in questo caso ci sarà un aumento in termini assoluti, seppure per un ammontare molto minore rispetto a quello del gas naturale. E quindi mi sentite? Sì, scusa. Quindi, insomma, ecco, diciamo che siamo ben lontani proprio da una transizione veramente senza emissioni di CO2. Ecco, questo da un punto di vista geopolitico, giusto? Cioè. Sì, purtroppo siamo molto lontani. E anche in quella che potrebbe essere uno scenario ottimistico. E la crisi però attuale suggerisce, ahimè, ci pone dinanzi ad altre problematiche. Ad esempio, partiamo proprio dall'attualità e pensiamo al crollo del prezzo del petrolio, il che per certi aspetti può essere visto come un elemento positivo, per altri come un elemento negativo. Ma per quanto attiene la nostra transizione, è un aspetto positivo o è un aspetto negativo? In molti analisti in questi giorni, ahimè anche qualche politico, hanno individuato proprio in virtù della crisi attuale la necessità di un passaggio alle rinnovabili. Io ovviamente non ho nulla in contrario, tutti quanti auspichiamo che il mondo delle rinnovabili arrivi il prima possibile, ma la realtà dei fatti ci dice che un prezzo del petrolio a $10 al barile è quanto di più negativo rispetto ad una transizione che utilizzi le rinnovabili. Quanto meno costa il petrolio, tanto sarà più difficile staccarsi dall'utilizzo del petrolio. Infatti il grande sviluppo delle rinnovabili degli ultimi anni è avvenuto soprattutto nei momenti in cui il prezzo del petrolio, il prezzo del barile era molto alto. Ma questo ci pone dinanzi ad un'altra problematica, e cioè questa transizione, chi la paga? Questa è probabilmente la domanda più importante, che spesso e volentieri viene evasa, nella misura in cui questa transizione ha un costo, proprio per i limiti a cui facevate riferimento all'inizio della trasmissione. Per cui le rinnovabili devono avere un sostegno finanziario, e questo sostegno bisogna pagarlo. È bene chiarire subito che in un periodo soprattutto di crisi come quello che stiamo vivendo, di crisi economica alla quale andiamo incontro, le risorse finanziarie per poter sostenere questa transizione rischiano di essere insufficienti. Certo. Questo è verissimo. Ti volevo chiedere anche questo. Secondo te, rispetto anche a quello che io avevo accennato prima, no? Sul ruolo di queste rinnovabili, ecco, io da uomo che ho studiato un po' la scienza, la fisica, insomma, il mio dubbio amletico è sempre stato quello: ma c'è effettivamente un'energia capace di soddisfare gli obiettivi dell'IPCC, cioè un'energia rinnovabile? Effettivamente no, cioè la fisica e la natura parla chiaro, non esiste una forma di energia siffatta. Quello che io mi sono fatto io questa idea, insomma, ecco, ed è un'idea che diciamo corrobora sia diciamo l'aspetto scientifico ma anche politico ed economico di questo. Innanzitutto io penso che bisogna consumare, la prima cosa è che i consumi devono essere ridotti, perché se no non se ne esce proprio fuori da questa situazione, e in più dobbiamo emettere, diciamo, una percentuale di inquinamento che sia in equilibrio con la natura, cioè noi dobbiamo emettere quello che la natura riesce ad assorbire, cioè quindi essere un bilancio nullo. Questo è l'obiettivo, se vogliamo proprio essere specifici. E soprattutto in questo caso non esiste un'energia, come ho detto prima, che risolva tutto, ma è la diversificazione, sempre e comunque, perché è ovviamente il basso. Allora, da un punto di vista economico, ecco, perché il principale scoglio è anche questo, no? A me, quando parlavi, mi è venuto in mente che ovviamente i processi geopolitici economici vanno in tutt'altra direzione, no? La Cina pensa al suo sviluppo, l'America idem, l'Europa idem, e quindi ognuno cerca di aumentare il proprio sviluppo attraverso proprio un aumento del consumo energetico. Il punto è quello. Non so come la vedi tu. Io condivido con le problematiche che poni. Io credo che un approccio corretto anzitutto dovrebbe essere quello che tiene insieme le questioni appunto ambientali delle quali stiamo discutendo con quelle economiche. Economiche vuol dire che tengano conto del funzionamento del sistema nel quale viviamo. Noi viviamo in un sistema capitalistico il cui fine è quello dell'accumulazione del capitale. È un'accumulazione infinita e ovviamente con quelli che sono i vincoli e i limiti del nostro pianeta, che invece è un pianeta dalle risorse finite. Io quindi intravedo due problematiche rispetto a quello che dicevi, e cioè da una parte non esiste purtroppo al momento una fonte energetica che appunto possa permetterci di far funzionare il pianeta senza inquinare o inquinando pochissimo. Questa transizione sarà possibile grazie a un mix energetico che ovviamente dovrà investire sempre di più sulle rinnovabili e sarà accompagnato con ogni probabilità dal gas naturale, come appunto i dati evidenziano. Il problema però è, a mio avviso, dato dal fatto che questa transizione non necessariamente sarà pacifica. E se noi guardiamo a quanto è avvenuto nel corso degli ultimi 10-15 anni da un punto di vista geopolitico, non c'è che da preoccuparci, anche solo rimanendo all'interno della nostra piccola Europa, che è una parte del pianeta, e pensiamo al gas naturale, possiamo contarle quelle che sono state le crisi tra l'Unione Europea e la Federazione Russa sulle questioni relative all'Ucraina e al transito di gas naturale, per non parlare delle pressioni americane sull'Unione Europea affinché appunto l'Unione Europea non acquisti materie prime dalla Federazione Russa per evidenti ragioni politiche. Cioè, in poche parole, quelli che sono gli interessi economici delle grandi potenze, che ovviamente non vanno nella stessa direzione e sono in contraddizione tra loro. Quindi il primo aspetto che io evidenzierei è la pericolosità di questa transizione. Noi parliamo di questa transizione spesso e volentieri destoricizzandola, senza tener conto del contesto politico, e a mio avviso questo è un grave errore, proprio perché il rischio che invece io vedo è quello di una maggiore conflittualità, proprio in virtù dell'evoluzione del mix energetico di cui parlavo prima. Nell'ipotesi in cui riuscissimo ad evitare appunto un conflitto o una serie di conflitti, cosa che non siamo riusciti a evitare nel corso degli ultimi anni, si pone invece un altro problema, più grave ancora probabilmente, che vede da una parte appunto il nostro sistema economico che si fonda sull'accumulazione infinita del capitale e il vincolo delle risorse naturali che invece appunto sono limitate. Ecco, mi chiedo se questa contraddizione non potrà essere superata dalla tecnologia. Io credo che non potrà essere superata dalla tecnologia, se ciò non implichi invece la necessità di un cambiamento del paradigma economico, un tema di cui tanto si parlava nel Novecento e che sembrava sepolto dopo gli anni 89-91 e che invece la crisi da Covid-19 ci ripropone in tutta la sua forza. E infatti siamo tornati proprio a parlarne con te anche in questo contesto, e all'inizio dicevamo l'abbiamo in qualche modo legati i due discorsi. È interessante perché, oltre agli scenari inquietanti sempre che lancia, soprattutto quelli relativi ai conflitti, alle cose, è interessante perché un ruolo che vedo nella capacità della scienza critica, ovviamente, di leggere la realtà in tutto questo contesto, eppure quello di contestualizzare bene anche il dissenso rispetto a questi aspetti, no? All'inizio facevo riferimento ai capelli rasta, non a caso, dei giovani dell'ENI, della pubblicità dell'ENI, che fanno vedere che grazie a loro l'ENI non inquina e riduce, e che è più green e quindi contribuisce alla riduzione del riscaldamento globale. È chiaro che questi queste mezzucci che alla luce anche soltanto di questa chiacchierata appaiono dei mezzucci, vanno decodificati, e quindi noi, ma soprattutto la comunità, voi, insomma, la comunità scientifica, diciamo, ufficiale, ha questo ruolo, come al solito, di proporre un approccio critico e di cercare di piano piano decodificare i messaggi che arrivano e rispiegarli, perché se no ci troviamo che facciamo la manifestazione per la costruzione di, che ne so, mi invento, di appunto un campo, un pannello fotovoltaico, oppure dell'introduzione, come dicono anche alcuni movimenti molto apparentemente molto radicali, e ci credono, l'elettrificazione delle città, così, quando poi invece è semplicemente un non c'è niente sotto per elettrificare le città e quindi passare al trasporto. Sì, certo, poi localmente migliori la qualità dell'aria, ma a livello globale crei un magari uno squilibrio ancora maggiore. Quindi penso che noi, la comunità scientifica, trasmissioni come queste ci abbiano il ruolo anche di spiegare un po' più approfonditamente, oltre che storicizzare, anche mettere, insomma, quello in fila le cose, come abbiamo fatto oggi, grazie alla tua lettura super, super lucida. Chi vuole intervenire? Se posso aggiungere qualcosa io a questa tua ultima considerazione, potremmo ad esempio, ascoltandoti mi veniva in mente i Friday for Future, no? E quindi lo stesso fenomeno di Greta Thunberg, che ha un significato politico ai miei occhi molto chiari. Faccio un esempio semplicissimo. Prima abbiamo citato la fratturazione idraulica e il fracking, che hanno permesso, soprattutto nei due mandati di Obama, di far sì che gli Stati Uniti d'America invertissero quello che era un trend che andava avanti dal 1971 al 2008, cioè quello di un calo della produzione di petrolio e di gas naturale e un contemporaneo aumento delle importazioni dal resto del mondo. Ecco, questo fenomeno si inverte con il fracking nel 2008 e procede fino ai giorni nostri, dove la pandemia creerà nuove contraddizioni. Ma ad esempio io non ho mai ascoltato la giovane Greta criticare ad esempio gli Stati Uniti d'America e l'utilizzo della tecnica del fracking, che è ad esempio bandita in Europa ed è bandita per motivazioni ambientali, per lo spreco d'acqua, per gli effetti sismici. E quindi io ho, ahimè, parecchi dubbi su e punti interrogativi anche rispetto a come si muovono politicamente determinati gruppi. A mio avviso, quindi, il ruolo della scienza, soprattutto nei confronti dei più giovani, perché è ovviamente molto importante il fatto che i più giovani, le nuove generazioni si rendano conto dei problemi del pianeta e quindi cerchino di affrontarli il prima possibile. Il ruolo della scienza e il vostro ruolo, a mio avviso, deve essere quello pedagogico, per dirle con un uomo che non era propriamente di scienza, ma che da poco, i 40 anni della sua scomparsa, cioè Gianni Rodari, un ruolo pedagogico della scienza, un ruolo educativo della politica che tenga per l'appunto insieme gli aspetti scientifici e quelli politici. Una delle poche trasmissioni serie nel nostro paese, sicuramente criticabile come tutte le trasmissioni, penso a Presa Diretta, spesso e volentieri ha affrontato i temi di cui stiamo discutendo questa sera. Ma ricordo ad esempio un docente, del quale non farò il nome, anche se la vicenda è riportata in una delle note del mio saggio, si esprimeva appunto evidenziando quelli che erano i limiti delle fonti fossili e le emissioni, quindi anche i limiti del gas naturale, esprimendo appunto delle considerazioni scientifiche da un punto di vista, corrette da un punto di vista scientifico, ma totalmente decontestualizzate invece da un punto di vista politico. Ecco, mi permetto di dire che la scienza così non è utile, non adempie, a mio avviso, a quello che dovrebbe essere il suo portato, il suo significato a 360 gradi. Grazie Demostene, siamo arrivati quindi alla fine di questa puntata. Sei stato fondamentale per spiegarci le dinamiche geopolitiche ed economiche legate appunto a queste transizioni energetiche. È un aspetto fondamentale, questo abbiamo, secondo me, è un aspetto che non va mai assolutamente sottovalutato, perché il ruolo della scienza e dello scienziato deve essere sempre interconnesso e storicizzato con l'agire umano, col periodo storico e con tutte le interconnessioni dovute alla geopolitica e all'economia. Le questioni energetiche devono essere appunto quindi inquadrate in un unicum come è il sapere umano, e come è la storia. Ti ringrazio tantissimo per questo contributo. Ricordo ancora ai radioascoltatori, per chi fosse interessato, il libro che ha scritto Demostenes, Guerra e pace dell'energia, la strategia per il gas naturale dell'Italia tra Federazione Russa e NATO, con la prefazione di Lucio Carracciolo, direttore di Limes, per edizioni di Arcos. Siamo arrivati alla fine, grazie tante Demostene ancora. Grazie a voi per l'invito. Ringrazio le radioascoltatrici e i radioascoltatori e alla prossima puntata di Libera Scienza e Libero Stato. E a lunedì prossimo per una nuova puntata di Entropia Massima dalle 8 alle 9 circa. Un saluto a tutte e a tutti, soprattutto a chi è privato della propria libertà personale.